Capitolo 37. Il castello di Ferdin era un'antica costruzione di modeste proporzioni e senza alcuna pretesa architettonica, nascosta in mezzo a un fitto bosco. Ne conoscevo già l'esistenza perché il signor Rochester ne parlava spesso e qualche volta anche vi andava. Suo padre aveva acquistato quella tenuta per la ricca selvaggina che ne popolava i dintorni. Il figlio l'avrebbe affittata volentieri, ma non era riuscito a trovare chi volesse abitarla a causa dell'aria malsana della regione. Così il castello era rimasto inabitato e anche vuoto di mobili, ad eccezione di due o tre stanze arredate per ricevere il padrone quando vi si recava nella stagione delle cacce. Giunsi a Ferndin verso il tramonto di una giornata triste e ventosa, sotto una pioggerella fredda e penetrante. L'ultimo miglio lo percorsi a piedi dopo aver licenziato carrozza e cocchiere, con la ricompensa doppia che gli avevo promesso. Il castello rimaneva nascosto fino a brevissima distanza, tanto erano folti gli alberi del bosco che lo circondava. Un cancello di ferro, tra pilastri di granito, mi indicò l'ingresso e appena oltrepassatolo mi trovai immersa nella semioscurità prodotta da una doppia fila di alberi. Un sentiero erboso si apriva nella foresta in mezzo a fusti nodosi e ad archi di verzura. Lo seguì, pensando che conducesse alla villa, ma continuava sempre perdendosi lontano e non si vedeva traccia né di prati né di case. Supposi di aver sbagliato direzione e di essermi smarrita. Intanto l'oscurità della sera, unita a quella del bosco, s'addensava intorno a me. Guardai da ogni lato, cercando un'altra via, ma non ne vidi. Nessuna radura si apriva tra quei tronchi maestosi in quell'intrico di cespugli e di fogliame. Proseguì e al fine il sentiero si allargò. Gli alberi si fecero più radi e scorsi più avanti una cancellata, poi una casa. Il buio impediva quasi di distinguerla dagli alberi, tanto i suoi muri erano scuri, umidi e verdastri. Varcai il cancello chiuso soltanto da un paletto e mi trovai in un terreno circondato da alberi piantati in semicerchio, oltre i quali infittiva il bosco. Non vi erano fiori né aiole in quel recinto, ma soltanto un largo viale ricoperto di ghiaia che correva attorno a un tappeto erboso, cui faceva da sfondo la foresta buia. La casa, vista di faccia, aveva due torrette al centro. Le finestre erano strette e munite di inferriate, e la porta centrale era pure angusta e con un solo gradino. Come aveva detto il padrone della locanda alle armi dei Rochester, era veramente un luogo desolato e in più silenzioso come una chiesa in un giorno feriale. Il fruscio della pioggia sulle foglie del bosco era il solo rumore che si udisse. Possibile che ci sia vita qui? Chiesi a me stessa. Sì, c'era vita perché a un tratto udii un rumore. La porta angusta si schiuse lentamente e nella semioscurità del crepuscolo una figura apparve sulla soglia. Era un uomo senza cappello e stese la mano come per sentire se piovesse. Nonostante il buio lo riconobbi, era il mio padrone, proprio lui, Edward Fairfax Rochester. Mi fermai, trattenendo il respiro, e lo osservai. Lo esaminai senza essere veduta e, ahimè, senza poterlo essere. La gioia di quell'incontro improvviso era offuscata da un'amarezza dolorosa e non dovetti farmi forza per trattenere l'esclamazione che con un tuffo mi era salita alla gola, né il passo che stava per affrettarsi. La sua figura era robusta e vigorosa come sempre, il portamento eretto, i capelli neri, né le fattezze erano alterate o stanche. Un anno di dolore non aveva fiaccato la forza atletica né la vigorosa maturità del signor Rochester, ma l'espressione era cambiata. Vi scorsi un'inquietudine, una disperazione che mi fecero pensare a un uccello da preda o a un animale selvatico e prigioniero che il dolore e la collera rendono pericolosi per chi li avvicina. L'aquila in gabbia, cui una mano crudele ha spento gli occhi cerchiati d'oro, doveva assomigliare a quel Sansone cieco. Malettrice, credi che io fossi spaurita dalla sua ferocia? Se lo credi, mi conosci ben poco. Il mio dolore fu lenito dalla dolce speranza di poter presto deporre un bacio su quella fronte di pietra, su quelle labbra così duramente sigillate, ma non subito. Per il momento non mi sarei ancora avvicinata a lui. Egli scese il gradino e avanzò con passo incerto verso il prato. Dove era scomparso il suo incedere ardito? Si fermò, come se non sapesse da che parte dirigersi, si portò la mano agli occhi e ne sollevò le palpebre, girò intorno uno sguardo spento e, facendo uno sforzo, volse le pupille verso il cielo e verso l'anfiteatro arboreo, ma mi accorsi bene che tutto per lui era oscurità. Stese la mano destra, la sinistra, quella mutilata, la teneva nascosta nel petto. Pareva che volesse col tatto farsi un'idea del luogo dove si trovava, ma ancora incontrò soltanto il vuoto perché gli alberi erano più lontani. Allora rinunciò al tentativo, incrociò le braccia e rimase irritto e muto sotto la pioggia che ora cadeva fitta sul suo capo scoperto. In quel momento John gli si avvicinò, sbucando di non so dove. «Vuole il braccio, signore?» gli disse. «Piove sempre più forte, non sarebbe meglio tornare in casa?» «Lasciami solo!» fu la risposta. John si allontanò senza avermi notata. Il signor Rochester tentò di nuovo di camminare, ma inutilmente, tutto era troppo incerto per lui. Così si avviò brancolando verso casa, ritrovò la porta, entrò e la richiuse. Allora mi avvicinai e bussai. La moglie di John venne ad aprirmi. «Buonasera, Mary», dissi. «Come sta?» Ella trasalì come se avesse visto uno spettro. La tranquillizzai e quando con voce turbata mi chiese in fretta «Ma è proprio lei, signorina, che viene a quest'ora in questo luogo deserto?» Le risposi prendendole la mano e seguendola in cucina, dove John era seduto accanto al fuoco. Spiegai loro in poche parole che ero informata di tutto quanto era avvenuto a Thornfield da quando ne ero partita e che ero venuta a trovare il signor Rochester. Pregai John di andare alla casa cantoniera, dove licenziando la carrozza avevo lasciato in deposito il baule. Poi, mentre mi toglievo lo scialle e il cappello, domandai a Mary se c'era modo di alloggiarmi alla villa per la notte. E quando seppi che una sistemazione era possibile, anche se difficile, le dissi che sarei rimasta. In quel momento squillò il campanello del salotto. «Quando entra», le dissi, «annunci al padrone che una persona desidera parlargli, ma non faccia il mio nome. Non credo che vorrà riceverla, non vuole ricevere nessuno». Quando tornò le domandai che cosa aveva risposto. «Vuol sapere il suo nome e che cosa desidera», mi disse, mentre riempiva d'acqua un bicchiere e lo metteva su un vassoio insieme ai due candelieri. «È per questo che ha suonato?» «Sì, vuole sempre il lume quando annotta, benché sia cieco. Diammi il vassoio, lo porterò io». Glielo presi di mano e mi feci indicare la porta del salotto. Il vassoio mi tremava tra le mani, tanto che un po' d'acqua si versò dal bicchiere. Il cuore mi batteva forte nel petto. Mary mi aperse la porta e la richiuse dietro di me. Il salotto era triste. Il fuoco non attizzato andava spegnendosi sugli alari e chino su di esso, con il capo appoggiato alla mensola antiquata del camino, stava il cieco abitante di quella stanza squallida. Pilota, il vecchio cane, era accucciato in un angolo, distante dal padrone come se temesse di venire inavvertitamente calpestato. Drizzò le orecchie quando entrai, poi balzò in piedi abbaiando e mi corse incontro con tanto impeto che per poco non mi fece cadere il vassoio dalle mani. Posai questo sul tavolo, poi accarezzai il cane dicendogli a bassa voce «Giù, pilota!». Il signor Rochester si volse per vedere che cosa avesse cagionato quel trambusto, ma non potendo vedere nulla si girò di nuovo verso il camino e sospirò «Dammi l'acqua, Mary!», disse. Mi accostai col bicchiere ormai mezzo vuoto. Pilota mi seguiva sempre eccitato. «Che cosa c'è?», domandò il signor Rochester. «Giù, pilota!», dissi di nuovo e il mio padrone, che stava portandosi il bicchiere alle labbra, si fermò, come in ascolto. Poi bevette e posò il bicchiere. «Sei tu, Mary, non è vero?» «Mary è in cucina». Egli stese la mano con un gesto brusco, ma non potendo vedere dove fossi, non riuscì a toccarmi. «Chi è? Chi è?» domandò, sforzandosi di vedere coi suoi occhi spenti. «Sforzo vano e doloroso. Rispondi, parla!» esclamò con voce alta e imperiosa. «Vuole ancora un po' d'acqua, signore? Ne ho versata la metà», dissi. «Ma chi è? Che cosa? Che cos'è? Chi parla?» «Pilota mi conosce, John e Mary sanno che sono qui, sono arrivata questa sera», risposi. «Gran Dio, di che illusione sono vittima? Quale dolce pazzia mi ha colto?» «Non è illusione né pazzia. La sua mente, signore, è troppo forte per rimanere vittima di un miraggio e troppo sana per vaneggiare. Dov'è colei che parla? O è soltanto una voce? Oh, non posso vedere, ma bisogna che senta, altrimenti il mio cuore cesserà di battere. La testa mi scoppierà. Chiunque tu sia, lascia che ti tocchi o morrò». Annaspò. Io fermai la sua mano barcollante e la chiusi nelle mie. «Son le sue dita!» esclamò. «Le sue piccole dita delicate! Allora è qui, tutta intera!» La mano muscolosa si sprigionò dalle mie, mi afferrò il braccio, le spalle, mi salì lungo il collo, mi cinse alla vita e io mi trovai stretta, avvinta a lui. «È proprio Jane! È lei davvero! Questa è la sua forma, la sua persona!» «E la sua voce», aggiunsi, «è tutta qui, anche il suo cuore. Dio la benedica, signore, sono felice di trovarmi di nuovo accanto a lei». «Jane Eyre! Jane Eyre!» fu tutto quello che poté dire. «Mio caro padrone», risposi, «sono Jane Eyre, l'ho ritrovata e torno da lei». «È davvero Jane Eyre? In carne ed ossa, la mia Jane, viva! Mi sente, signore, mi tiene stretta e anche piuttosto forte. Non sono fredda come un cadavere né inconsistente come l'aria, non è vero?» Il mio tesoro vivente, queste son certo le sue membra, queste le sue fattezze, ma non può essere che io abbia tanta felicità dopo tanto dolore. È un sogno di quelli che ho fatto spesso, di notte, immaginandomi di stringerla ancora una volta sul mio cuore, come faccio ora, credendo di baciarla e sentendo che mi amava e che non mi avrebbe lasciato mai. E infatti, da oggi non la lascerò più, signore. Mai più? Mai più, dice. La visione? Ma da quei sogni mi svegliavo sempre, mi ritrovavo solo, desolato e abbandonato. La mia vita era vuota, buia e senza speranza. La mia anima aveva sete e non trovava di che dissetarsi. Il mio cuore era affamato e non poteva nutrirsi. Visione gentile che ora stringo tra le braccia, anche tu svanirai come le altre, ma baciami prima di fuggire, bracciami, Jane. Ecco, signore, qui e poi qui, premetti le labbra sui suoi occhi, un tempo così brillanti e ora senza luce. Gli scostai i capelli dalla fronte e gliela baciai, e ad un tratto egli parve ridestarsi. La convinzione della realtà era penetrata in lui. È lei, proprio lei, Jane, ed è tornata a me. Sì. Allora non giace morta in qualche fossato, nel letto di un torrente, non vive derelitta in mezzo ad estranei. No, signore, ora sono una donna indipendente. Indipendente? Che cosa intende dire, Jane? Mio zio di Madera è morto e mi ha lasciato 5.000 sterline. Ah, questi son fatti, questa è realtà, esclamò. Non avrei mai sognato nulla di simile. E poi questa è la sua voce, così animata, gaia eppure dolce. Mi rallegra il cuore, mi ridà nuova vita. Come, Jane, come, è una donna indipendente, ora una donna ricca. Ricca, signore, e se non mi permetterà di vivere con lei, potrò farmi costruire una casa uscio a uscio con la sua, e quando lei sentirà bisogno di un po' di compagnia, la sera verrà a trovarmi nel mio salotto. Ma ora che è ricca, Jane avrà senza dubbio amici che si curano di lei e che non le permetteranno di dedicarsi a un povero cieco. Le ho detto che sono indipendente, signore, oltre che ricca, sono padrona di me stessa. E vuole restare con me? Certo, a meno che lei non lo desideri. Sarò la sua vicina, la sua infermiera, la governante della sua casa. Lei è solo, sarò la sua compagna. Leggerò per lei, passeggerò con lei, mi siederò al suo fianco, sarò le sue mani ed i suoi occhi. Smetta di mostrarsi triste, caro padrone, lei non rimarrà più solo finché vivrò. Egli non rispose. Sembrava assorto in gravi pensieri. Sospirò, schiuse le labbra per parlare e le richiuse di nuovo. Mi sentivo a disagio, forse avevo tenuto troppo poco conto delle convenienze e lui, come St. John, era rimasto urtato dalla mia sfacciataggine. Avevo fatto la mia proposta partendo dall'idea che gli desiderasse sposarmi, incoraggiata dalla convinzione che, anche se finora aveva taciuto, mi avrebbe subito reclamata come cosa sua, ma vedendo che nessun cenno al riguardo sfuggiva dalle sue labbra e che il suo viso si faceva sempre più chiuso e grave, temetti a un tratto d'essermi ingannata e di avere, senza saperlo, agito alla leggera. Allora cercai di svincolarmi dalle sue braccia, ma egli mi strinse a sé più forte. No, no, Jane, non deve allontanarsi. L'ho toccata, l'ho ascoltata. Ho sentito il conforto della sua presenza, la dolcezza d'essere consolato da lei. Non posso rinunciare a queste gioie. Poco mi resta di me stesso. Devo avere lei. Il mondo potrà ridere, chiamarmi pazzo ed egoista. Non importa. La mia anima ha bisogno di lei e vuole essere appagata o si vendicherà crudelmente sul corpo che la racchiude. Ebbene, signore, rimarrò con lei, come ho detto. Sì, ma il rimanere con me lei lo intende in un modo ed io in un altro. Lei forse potrebbe risolversi a starmi accanto per avere cura di me, per assistermi come un'infermiera premurosa e attenta, perché ha un cuore buono, uno spirito generoso che la spingono a sacrificarsi per coloro che compatisce, e questo certo dovrebbe bastarmi. Credo che ora dovrei nutrire per lei soltanto un sentimento paterno, non è questo il suo pensiero? Su, me lo dica. Penserò quello che vuole, signore, e sarò contenta di farle soltanto da infermiera, se così preferisce. Ma non potrà essere sempre la mia infermiera, Jane. Lei è giovane, un giorno si sposerà. Non desidero sposarmi. Lo dovrebbe, Jane. Se io fossi quello di prima, cercherei di farglielo desiderare, ma così, cieco, ricadde di nuovo nella sua tristezza. Io invece mi feci più allegra e ripresi coraggio. Le sue ultime parole mi avevano fatto capire in che cosa consistesse l'ostacolo, e poiché per me un ostacolo non era, mi sentii sollevata dai miei timori e ripresi la conversazione in tono più vivace. È tempo che qualcuno si incarichi di ridarle un aspetto più umano, dissi ravviandogli i capelli lunghi e incolti. Perché vedo che si è trasformato in un leone. Ha preso un aspetto da Nabucodonosor campagnolo, non c'è dubbio, e la sua capigliatura mi ricorda le penne dell'aquila. Se poi le sue unghie siano diventate come artigli, ancora non lo so, perché non le ho guardate. Questo braccio non termina più con una mano, e E quindi nemmeno con le unghie, disse, estraendo dal petto il braccio mutilato per farmelo vedere. È un moncherino, una vista ripugnante, non trova, Jane? Fa pena vederlo e fanno pena i suoi occhi e il segno che le ustioni le hanno lasciato sulla fronte. E il peggio è che si corre il rischio di amarlo troppo proprio per questo e di stimarlo di più di quel che vale. Credevo che le avrei ispirato disgusto, Jane, quando avesse visto questo braccio e le cicatrici che ho sul viso. Davvero? Non dica più nulla di simile, o dirò io qualche cosa di poco lusinghiero sulla sua perspicacia. Ora mi lasci andare un momento, voglio attizzare il fuoco, liberare il camino da tutta quella cenere. Vede nulla quando il fuoco arde bene? Sì, con l'occhio destro vedo un chiarore vago, una nebbia rossastra. E vede le candele? Molto confusamente, come una nuvola luminosa. E me, riesce a vedermi? No, cara, ma sono già pago di sentirla e di udirla. A che ora cena? Non ceno mai. Ma questa sera cenerà, io ho fame e sono certa che anche lei ha appetito, soltanto non ci pensa. Chiamai Mary e con il suo aiuto riuscii in breve a dare alla camera un aspetto più ordinato ed accogliente. Preparai anche una buona cena. Ero tutta eccitata, ma perfettamente a mio agio, e gli parlai con piacere durante la cena e ancora più a lungo dopo. Con lui non vi era bisogno di esercitare un faticoso controllo su se stessi, di reprimere il buon umore, la vivacità, perché con lui mi trovavo bene, sapendo di piacergli. Tutto quanto dicevo o facevo sembrava consolarlo e rianimarlo. Deliziosa consapevolezza che faceva espandere liberamente la mia natura, mettendola tutta in luce. Accanto a lui vivevo con tutto l'essere, così era per lui quando gli stavo accanto. Sebbene cieco, il sorriso gli animava il volto, la gioia riappariva sulla sua fronte, i suoi tratti prendevano un'espressione più calda e più dolce. Dopo cena cominciò a farmi molte domande per sapere dove ero stata, che cosa avevo fatto, in qual modo lo avevo ritrovato, ma non gli diedi che risposte succinte perché era troppo tardi ormai per addentrarsi nei particolari. Inoltre non volevo toccare corde troppo sensibili né aprire nel suo cuore una nuova fonte di emozioni. Il mio solo scopo per il momento era di renderlo lieto. E lieto, come ho detto, lo era, ma soltanto a tratti e se un attimo di silenzio interrompeva la conversazione, egli si volgeva inquieto verso di me, mi toccava e diceva: Jane, Jane, è davvero un essere umano? Ne è ben certa. Lo credo in coscienza, signor Rochester. Ma come mai allora, in questa serata cupa e buia, è comparsa così all'improvviso accanto al mio solitario focolare? Ho allungato una mano per prendere un bicchier d'acqua da una serva e mi è stato porto da lei. Ho fatto una domanda aspettandomi di sentir rispondere la moglie di John e invece è stata la sua voce che ha risuonato alle mie orecchie. Perché ero entrata io al posto di Mary con il vassoio? Vi è un incanto in quest'ora che passo con lei. Nessuno può sapere quale esistenza buia e desolata io abbia trascinato per mesi. Senza far nulla, senza aspettare nulla, confondendo il giorno con la notte, sentendo soltanto il freddo quando lasciavo spegnere il fuoco, la fame quando dimenticavo di mangiare, e una tristezza incessante, talvolta un desiderio frenetico di riavere la mia Jane. Sì, bramavo che lei mi fosse resa, ancora più che di recuperare la vista. Come può essere che ora Jane sia qui e mi dica di amarmi? Non tornerà via all'improvviso come è venuta? Domani temo di non ritrovarla più. Una risposta pratica, banale, estranea al corso doloroso dei suoi pensieri era, lo sentivo, il mezzo migliore per rassicurarlo. Gli accarezzai le sopracciglia, osservando che erano bruciate, e aggiunsi che gliele avrei fatte ricrescere folte e nere come prima, grazie ad un unguento. Perché farmi del bene, spirito benefico, se dovrà venire il momento fatale in cui mi abbandonerà di nuovo, sparirà come un'ombra, io non saprò nemmeno dove sarà andata, né come fare a ritrovarla. Ha un pettinino in tasca, signore? Perché, Jane? Per pettinare codesta criniera irsuta. Mi fa quasi paura quando la guardo da vicino. Dice che io sono una fata, ma lei ne sono certa, rassomiglia a un diavolo. Sono brutto, Jane? Molto, signore, lo è sempre stato, lo sa bene. Oh, vedo che dovunque sia stata fino ad ora non si è corretta della sua cattiveria. Eppure ho vissuto in mezzo a buona gente, molto migliore di lei, 100 volte migliore, gente con idee e vedute che lei non ha mai coltivato in vita sua, molto più elevate e raffinate. Con chi diavolo è stata? Se si agita così le strapperò i capelli dalla testa e allora smetterà di credermi incorporea. Con chi è stata, Jane? Non riuscirà a farmelo dire questa sera, signore. Deve aspettare fino a domani. Il lasciare a metà il mio racconto, in certo modo, è una garanzia che domattina comparirò al tavolo della colazione per finirlo. A proposito, mi ricorderò di non apparire davanti al focolare soltanto con un bicchiere d'acqua. Porterò almeno un uovo e un po' di prosciutto fritto. Folletto, figlia delle fate, eppure figlia degli uomini, lei mi fa tornare quello che sono stato, che non sono più stato da un anno a questa parte. Se Saul avesse avuto lei al posto di Davide, lo spirito maligno sarebbe stato esorcizzato senza bisogno dell'arpa. Ecco, signore, ho ripettinato e ha un aspetto più decente. Io la lascio, ho viaggiato 3 giorni e sono stanca. Buonanotte. Ancora una parola, Jane. C'erano soltanto signore nella casa ove ha abitato? Risi e fuggii via, e ridevo ancora mentre salivo le scale. Un'ottima idea, pensavo divertita. Ho scoperto il modo di toglierlo alla sua malinconia, almeno per qualche giorno. Il mattino dopo, di buon'ora, sentii che era già in piedi. Non appena Mary scese da lui, le domandò: «E qui la signorina Eyre?» Poi, quale camera le ha dato? Non c'era umidità? È alzata? Vada a vedere se ha bisogno di nulla e le chieda quando scenderà. Scesi quando giudicai che vi fosse qualche probabilità di fare colazione. Entrando in punta di piedi nel salotto, potei osservarlo senza che egli si accorgesse della mia presenza. Faceva pena vedere quello spirito vigoroso avvilito da un'infermità del corpo. Era seduto in poltrona, ma appariva inquieto, come chi aspetta con ansia qualche cosa. I suoi marcati lineamenti erano velati dall'ormai abituale espressione malinconica. Sembrava una lampada spenta che attende qualcuno che la riaccenda. Ma ahimè, non era lui che poteva riavvivare la fiamma. Aveva bisogno dell'aiuto di un altro. Mi ero proposta ad essere gaia e spensierata, ma l'impotenza di quell'uomo forte mi toccò il cuore. Tuttavia cercai di apparire lieta, accostandomi a lui. «È una bellissima mattina, signore, piena di sole», dissi con vivacità. «La pioggia se n'è andata e l'aria è più leggera. Tra poco usciremo un po' a passeggio». Avevo riacceso la fiamma. Il viso gli si illuminò. «Ah, è tornata, l'odoletta!» «Si avvicini. Non è partita, dunque, non è scomparsa. Un'ora fa ho udito le sue sorelle cantare nel bosco, ma quel canto non aveva attrattive per me, come il sole nascente non aveva raggi». Tutte le armonie della terra sono riassunte ai miei orecchi nella voce della mia Jane, che per fortuna si fa udire spesso, è il solo raggio di sole che io avverte la sua presenza. Mi vennero le lacrime agli occhi nell'udire questa confessione della sua impotenza. Pareva un'aquila reale, chiusa in gabbia, costretta a chiedere a un passerotto di portarle il cibo. Ma non volli cedere alle lacrime. Mi asciugai gli occhi e preparai la colazione. Passammo la maggior parte della mattina all'aria aperta. Lo condussi fuori del bosco umido e scuro fino ad una distesa di prati. Gli descrissi il verde intenso e lucido dell'erba, le siepi fiorite che la pioggia aveva rinfrescato, il cielo radiosamente azzurro. Cercai un angolo ombroso dove egli potesse sedersi sul tronco di un albero e non mi rifiutai quando egli mi attirò sulle sue ginocchia. Perché glielo avrei dovuto negare se entrambi eravamo più felici insieme che divisi? Pilota era accucciato accanto a noi. E tutto era tranquillo. A un tratto egli esclamò, stringendomi tra le braccia: «Crudele, crudele disertore! Oh Jane, quanto soffersi! Quando scoprì che era fuggita da Thornfield e che non potevo trovarla in nessun luogo, quando frugando in camera sua mi accorsi che non aveva preso né denaro né un qualunque oggetto che potesse equivalerlo. Il vezzo di perle che le avevo regalato era ancora nel cassetto, i bauli erano intatti, ancora chiusi e legati come per il viaggio di nozze. Mi domandai: che cosa avrebbe fatto la mia cara, sola e senza denari? E che cosa ha fatto? Me lo dica». Cedendo alla sua ansia, cominciai il racconto delle mie esperienze di quell'anno. Attenuai molto le sofferenze dei 3 primi giorni nei quali avevo errato senza meta e morente di fame, perché digli tutto sarebbe stato infliggergli un inutile dolore. Già quel poco che gli raccontai lo ferì più a fondo di quello che avrei voluto. Mi disse allora che non avrei dovuto lasciarlo così, senza mezzi di sostentamento. Avrei dovuto dirgli le mie intenzioni, confidarmi con lui, ed egli non mi avrebbe mai costretta ad essere la sua amante. Per violento che mi fosse sembrato nella sua disperazione, mi amava troppo e troppo teneramente per mutarsi in un tiranno. Mi avrebbe dato metà del suo patrimonio, senza chiedermi in cambio neppure un bacio, piuttosto che vedermi gettata allo sbaraglio, spersa per il mondo senza amici. Dovevo avere sofferto, lo sentiva assai più di quanto confessavo. «Comunque, le mie sofferenze sono state brevi», risposi, e gli raccontai come ero stata ricevuta a Moorhouse, come avevo ottenuto il posto di maestra e poi, per ordine, dell'eredità che mi aveva resa ricca e del modo come avevo scoperto la mia parentela con i Rivers. Naturalmente il nome di St. John Rivers ricorse spesso nella mia narrazione. «Dunque, quel St. John è suo cugino?» «Sì, ne ha parlato spesso, gli voleva bene». «Era un ottimo uomo, signore, non potevo non volergli bene». Che significa un ottimo uomo? Forse un rispettabile signore di 50 anni dalla condotta irreprensibile? O che altro? St. John ne ha 29, signore. Je n'en encore, come dicono i francesi. Piccolo, brutto, flemmatico? Forse una di quelle persone la cui bontà consiste piuttosto nella mancanza di vizi che nell'esercizio di autentiche virtù? St. John è instancabilmente attivo e lo scopo della sua vita è di compiere azioni grandi e nobili. Ma la mente? Forse la piuttosto debole? Le sue intenzioni sono nobili, ma quando ne parla nessuno gli dà credito? Parla poco, signore, ma quel che dice è sempre interessante e ha una mente di prim'ordine, uno spirito forse troppo rigido ma vigoroso. Allora è un uomo capace e intelligente. Sì, posso dirlo in coscienza. Di ottima educazione? St. John è un vero gentiluomo e inoltre molto colto. Non ha detto che i suoi modi non le piacevano? Forse è pedante, ama far la predica? Non ho mai alluso ai suoi modi, ma se non mi fossero piaciuti sarei stata di cattivo gusto perché sono cortesi, calmi e signorili. E il sospetto? Ho dimenticato come me l'ha descritto, una specie di rustico prete campagnolo con la cravatta bianca che minaccia di strozzarlo e le scarpe grosse che lo rendono anche più goffo. St. John si veste bene ed è un bell'uomo alto, biondo, con gli occhi azzurri e il profilo greco. Che il diavolo se lo porti! Esclamò a bassa voce. Poi, volgendosi a me, gli voleva bene, Jane? Sì, signor Rochester, gli volevo bene, me lo ha già chiesto prima. Capivo naturalmente che cosa agitava il mio interlocutore. La gelosia si era impadronita di lui, lo torturava, ma quella tortura era salutare perché lo strappava alla malinconia. Così non volle incantare subito quel verde serpente. Forse preferisce non rimanere più sulle mie ginocchia, signorina Eyre? Fu la domanda piuttosto inaspettata che seguì. Perché no, signor Rochester? Secondo il ritratto che mi ha fatto appena adesso, il contrasto deve sembrarle troppo forte. Le sue parole hanno descritto molto garbatamente un bell'Apollo. Egli è presente alla sua immaginazione, alto, biondo, con gli occhi azzurri e il profilo greco. Ora il suo sguardo si posa su un vulcano, un vero fabbro nero con le spalle larghe, cieco e storpio per di più. Non ci avevo mai pensato, signore, ma è vero che lei sembra vulcano. Quando è così può lasciarmi, signora, ma prima di andare, e mi teneva più stretta che mai, abbia la cortesia di rispondere a un paio di domande. Si interruppe. Quali, signor Rochester? Allora incominciò questo interrogatorio. St. John le aveva ottenuto quel posto di maestra a Morton prima di sapere che era sua cugina? Sì. Lo vedeva spesso, veniva a visitare la scuola? Tutti i giorni. Approvava quello che lei faceva, Jane? So che certo faceva bene perché è intelligente, piena di risorse. Sì, approvava. E scoperse presto in lei più cose di quanto non si aspettasse di trovare? Lei ha doti e capacità fuori dell'ordinario. A questo non so rispondere. Abitava in una casetta accanto alla scuola, mi ha detto. Veniva a trovarla qualche volta? Ogni tanto. Di sera? Una volta o due. Una pausa. Quanto tempo abitò con lui e con le sue sorelle dopo che scopriste la vostra parentela? 5 mesi. Rivers stava molto con le signore della famiglia? Oh sì, il salotto serviva da studio a tutti, egli stava accanto alla finestra e noi attorno al tavolo. Studiava molto? Moltissimo. E che cosa? L'indostano. E lei che cosa faceva? E prima studiai il tedesco. Glielo insegnava lui? No, non conosceva il tedesco. Non le ha insegnato nulla? Un po' di indostano. Rivers le insegnava l'indostano? Sì, signore. Anche alle sorelle? No. Soltanto a lei? Soltanto a me. Glielo aveva chiesto lei? No. Era lui che lo desiderava? Sì. Un'altra pausa. E perché? A che cosa poteva servirle l'indostano? Voleva condurmi in India con lui. Ah, eccoci al nocciolo, voleva sposarla. Infatti me lo ha chiesto. Non è vero, è una sfrontata invenzione per farmi soffrire. Le chiedo scusa, ma è la verità. Mi ha domandato di diventare sua moglie più di una volta ed era tenace nella sua richiesta, più di quanto avrebbe potuto esserlo lei. Signorina Eyre, le ripeto che può andarsene. Quante volte devo dire la stessa cosa? Perché si ostina a rimanere sulle mie ginocchia quando le ho detto di lasciarmi? Perché ci sto bene. No, Jane, non ci sta bene. Il suo cuore non è con me. Pensi con suo cugino, quel St. John. Oh, fino a questo momento ho creduto che la piccola Jane fosse tutta mia. Ho continuato a credere che mi amasse anche quando mi abbandonò ed era la sola cosa dolce in tanta amarezza. Per quanto lunga fosse la nostra separazione, per quante lacrime io abbia versato sulla sua lontananza, non ho pensato mai che mentre io soffrivo la mia Jane amasse un altro. Ma è inutile rammaricarsi, Jane. Mi lasci, se ne vada, sposi Rivers. Allora, signore, mi scacci, mi spinga via con la forza, perché io non la lascerò di mia volontà. Jane, amo il tono della sua voce, che ridesta ancora la speranza perché suona così sincera. Quando l'ascolto mi riporta un anno fa e dimentico che lei ha stretto nuovi legami. Ma non sono un pazzo, se ne vada. Dove devo andare, signore? Per la sua via, con il marito che si è scelto. E chi è? Lo sa bene quel Rivers? Non è mio marito e non lo sarà mai. Egli non mi ama né io lo amo. È innamorato, come lui può esserlo, cioè in un modo ben diverso dal suo, di una bella ragazza di nome Rosamond. Voleva sposare me soltanto perché mi riteneva più adatta dell'altra a diventare la moglie di un missionario. È buono e nobile, ma severo e per me è freddo come il ghiaccio. Non è come lei, signore, ed io non mi trovo bene a suo fianco, né accanto a lui né con lui. Egli non ha indulgenza né tenerezza, non vede nulla di attraente in me, nemmeno la gioventù. Mi considera soltanto per qualche utilità che può essergli utile. E dovrei lasciare il mio caro padrone per andare da lui? Rabbrividii involontariamente, con un gesto istintivo mi strinsi al mio padrone cieco, ma tanto amato. Egli sorrise. Come? Jane, è vero? Così stanno realmente le cose tra lei e Rivers? Esattamente così, signore. Oh, non deve essere geloso. Volevo soltanto stuzzicarla un poco perché fosse meno triste, pensando che la collera va al meglio del dolore, ma se ci tiene al mio amore, potesse soltanto vedere quanto l'amo sarebbe felice e orgoglioso. Tutto il mio cuore è suo, signore, le appartiene e continuerebbe ad appartenerle anche se il destino dovesse allontanarmi da lei per il resto dei miei giorni. Di nuovo, mentre mi abbracciava, un velo di tristezza gli scese sul viso. Oh, i miei occhi spenti, le mie forze mutilate, mormorò con amarezza. Lo accarezzai per consolarlo, sapevo a che cosa pensava e avrei voluto parlare per lui, ma non osai. Mentre distoglieva per un istante il viso, vidi una lacrima scendergli di sotto le palpebre chiuse e inumidigli la guancia. E il cuore mi si gonfiò. Non valgo più del vecchio ippocastano colpito dal fulmine nell'orto di Thornfield, disse dopo un poco. E che diritto avrebbe questo rudere di chiedere a un caprifoglio in fiore di ricoprirlo con i suoi tralci freschi? Lei non è un rudere, signore, non è un albero colpito dal fulmine, lei è verde e vigoroso. Nuovi arbusti spunteranno attorno alle sue radici, che lei voglia o no, e si compiaceranno di crescere nella sua ricca ombra. Si appoggeranno a lei, la cingeranno perché la sua forza offrirà loro un valido sostegno. Sorrise di nuovo. Le mie parole lo rasserenavano. Parla degli amici, Jane? Domandò. Sì, signore, degli amici, risposi esitante perché intendevo alludere a qualche cosa di più, ma non ero capace di usare un'altra parola. Egli mi venne in aiuto. Ma Jane, io ho bisogno di una moglie. Davvero, signore? Sì, le giunge nuovo? Certo, non me ne aveva mai fatto parola. Ed è una notizia sgradita? Dipende dalle circostanze, signore, dalla sua scelta. Che farà lei per me, Jane? Io mi rimetto alla sua decisione. Allora, signore, scelga quella che l'ama di più. Voglio scegliere perlomeno quella che io amo di più. Jane, mi vuole sposare? Sì, signore. Un uomo storpio che ha 20 anni più di lei e che dovrà assistere? Sì, signore. Davvero, Jane? Davvero. Oh, amor mio, che Dio la benedica e la ricompensi. Signor Rochester, se mai ho compiuto una buona azione nella mia vita, se mai ho avuto un pensiero generoso, un desiderio retto, se mai ho recitato sinceramente una preghiera, ora ne sono ricompensata. Essere sua moglie equivale per me alla felicità sulla terra. Perché ama sacrificarsi? Sacrificarmi? Che cosa sacrifico? La fame per il nutrimento? L'ansia per la contentezza? Avere il privilegio di stringere tra le braccia colui che stimo, di posare le labbra sulle labbra di chi amo, di affidarmi a colui nel quale credo è forse un sacrificio? Se così è, certamente amo sacrificarmi. E sopportare le mie infermità, Jane, chiudere gli occhi sulle mie deficienze, che non esistono per me, signore. L'amo, maggiormente ora che posso davvero esserle utile, come non era possibile al tempo della sua orgogliosa indipendenza, quando lei sdegnava ogni parte che non fosse quella del donatore e del protettore. Fin qui detestavo essere guidato ed aiutato, mi ripugnava, ma sento che ora non sarà più così. Non mi piaceva mettere in mano la mano in quella di un servo, ma è una gioia sentirla stretta dalle piccole dita di Jane. Preferivo l'assoluta solitudine alla presenza di un estraneo prezzolato, ma la dolce assistenza di Jane sarà una continua felicità. Jane, mi piace, ed io le piaccio? Fin nelle più intime fibre del mio essere, signore. Così stando le cose, nulla al mondo ci costringe ad aspettare, dobbiamo sposarci subito. Aveva il viso acceso e la parola ardente, l'antica passionalità della sua natura risorgeva. Dobbiamo diventare senza indugio una creatura sola, Jane. Non ci resta che da ottenere la licenza, poi ci sposeremo. Signor Rochester, vedo che il sole sta per tramontare e il pilota è già tornato a casa per la cena. Mi lasci guardare il suo orologio. Se lo mette alla cintura, Jane, d'ora in poi lo tenga lei, a me non serve. Sono quasi le 4, signore, non ha appetito? Fra 3 giorni ci sposeremo, Jane. Non importano i gioielli, i bei vestiti, questa volta tutto ciò. non vale nulla. Il sole ha asciugato tutte le gocce di pioggia, il vento tace e fa caldo. Lo sa Jane che il suo vezzo di perle in questo momento è attorno al mio collo bronzato. Lo porto come ricordo del giorno in cui perdetti il mio unico tesoro. Torneremo a casa attraverso il bosco per avere un po' d'ombra sul cammino. Egli seguiva i propri pensieri senza ascoltarmi. Jane, proseguì, lei forse mi crede un uomo senza religione, ma in questo momento il mio cuore è gonfio di gratitudine per la misericordia divina. Il Dio non vede come gli uomini, ma molto più chiaramente, non giudica come gli uomini, ma molto più saggiamente. Io ero in procinto di agire male, avrei macchiato un fiore innocente, contaminato la sua purezza. L'Onnipotente me lo ha tolto di mano. Io, nella mia orgogliosa ribellione, l'ho quasi maledetto. Invece di inchinarmi al suo decreto, l'ho sfidato. La giustizia divina ha seguito il suo corso, la sventura si è accanita su di me e fui quasi per passare nella Valle delle Ombre. I suoi castighi sono terribili e quello che mi colpì mi ha umiliato per sempre. Lei sa che ero fiero della mia forza e che cosa ne è rimasto ora, che devo rimetterla nelle mani altrui come un bambino la propria debolezza. Tardi, Jane, soltanto tardi, cominciai a vedere e a riconoscere la mano di Dio nel mio destino. Cominciai a sentire rimorso e pentimento, a desiderare di riconciliarmi con il mio Creatore e a pregare qualche volta. Le mie preghiere erano brevi, ma sincere. Qualche giorno fa, no, posso contarli, 4 giorni fa, era un lunedì sera, mi trovavo in un singolare stato d'animo. Il dolore aveva preso il posto dello smarrimento, dell'angoscia e della disperazione. Da molto tempo mi ero convinto che non avendo potuto rintracciare la mia Jane, ella doveva essere morta. Quella sera, sul tardi, poteva essere tra le 11 e le 12, prima di coricarmi, supplicai Dio di togliermi da questo mondo, se ciò poteva accordarsi con i suoi disegni, e di ammettermi in quello futuro dove avevo ancora speranza di ricongiungermi a Jane. Ero in camera mia, seduto accanto alla finestra aperta. L'aria balsamica della notte mi faceva bene, mi calmava anche se non potevo vedere le stelle e se la presenza della luna mi era rivelata soltanto da un vago alone luminoso. Desideravo te, Jane, ti desideravo con l'anima e col corpo, chiesi a Dio, angosciato e umiliato al tempo stesso, se non avevo già sofferto abbastanza e se non avrei più conosciuto un po' di pace e di felicità. Ammettevo di aver meritato i miei mali e le mie pene, ma gli dissi pure che non avevo più la forza di sopportarne altre e involontariamente mi sfuggì dalle labbra un grido che riassumeva tutti i desideri del mio cuore. Jane, Jane, Jane! Mi ha chiamata ad alta voce. Sì, Jane, e se qualcuno mi avesse sentito mi avrebbe preso per matto perché avevo gridato quel nome freneticamente. Ed è stato lunedì sera, verso mezzanotte? Sì, ma il giorno e l'ora non hanno importanza. Lo strano è quello che venne dopo. Mi crederai superstizioso, e infatti un po' di superstizione nel sangue l'ho e l'ho sempre avuta. Comunque, questo è vero, o perlomeno è vero che udii quello che sto per dire. Mentre chiamavo Jane, Jane, Jane, una voce che non posso dire di dove venisse, ma che so bene a chi appartenesse, rispose: Vengo, aspettami! E un momento dopo sentii sussurrare nell'aria: Dove sei? Ti descriverò, se riesco, l'immagine che quelle parole mi richiamarono alla mente, ma è difficile esprimerla. Ferdinand è sepolto, come vedi, in un bosco molto fitto dove i suoni giungono attutiti e si spengono senza eco. Quelle parole. Dove sei? Sembravano arrivare da un luogo di montagna perché l'eco le ripeté come di valle in valle. In quel momento una brezza più fresca mi sfiorò la fronte. Avrei potuto credere che Jane ed io ci fossimo incontrati in qualche luogo selvaggio e solitario, e credo che in spirito noi ci siamo incontrati. Certo, a quell'ora tu dormivi placidamente, forse nel sonno la tua anima ha lasciato il suo involucro. Per consolare la mia, perché quella era la tua voce, ne sono certo, come sono certo d'essere vivo, era la tua voce. Lettrice, era stato appunto nella notte del lunedì, verso la mezzanotte, che anche io avevo ricevuto la misteriosa chiamata alla quale avevo risposto proprio con le parole che ora mi erano state ripetute. Ascoltai il racconto del signor Rochester, ma non gli rivelai nulla in cambio. La coincidenza mi sembrava troppo impressionante e inesplicabile per essere comunicata o discussa. Ne sarebbe rimasto colpito se gliene avessi accennato e non volevo che la sua mente, già scossa da tante sofferenze, fosse ulteriormente turbata dall'ombra oscura d'un fatto soprannaturale. Così serbai quelle cose sepolte nel mio cuore e le meditai in silenzio. Non ti meraviglierai dunque, continuò il mio padrone, che ieri sera, quando mi sei comparsa di fronte all'improvviso, ti abbia creduta una visione, una voce che si sarebbe spenta nel silenzio come poche notti prima, il sussurrio e l'eco della montagna. Ma ora so che non sei una visione e ne ringrazio Dio dal fondo dell'anima. Mi fece scendere dalle sue ginocchia, si alzò e, scoprendosi con reverenza il capo, volti a terra gli occhi senza sguardo, rimase immobile in muta devozione. Udii soltanto le ultime parole della sua preghiera. Ti ringrazio, mio Creatore, di esserti rammentato della tua misericordia nell'ora della punizione e supplico umilmente il mio Redentore di darmi la forza necessaria per condurre, d'ora in poi, una vita più pura che per il passato. Stese la mano perché lo guidassi. Presi quella mano adorata, la portai per un momento alle labbra, poi lasciai che mi cingesse le spalle. Essendo tanto più piccola di lui, potevo servirgli sia d'appoggio che di guida. Ci addentrammo nel bosco e ritornammo verso casa. Capitolo 38, conclusione. Lettrice, lo sposai. Fu una cerimonia molto tranquilla, il nostro matrimonio. Lui, io, il pastore e il chierico eravamo i soli presenti. Quando tornammo dalla chiesa, entrai nella cucina del castello dove Mary stava preparando il pranzo, mentre John lustrava i coltelli e dissi: Mary, questa mattina ho sposato il signor Rochester. La cuoca e suo marito appartenevano a quel tipo di gente flemmatica e discreta, alla quale si può sempre comunicare con tranquillità anche la notizia più importante, senza rischiare di sentirsi forare le orecchie da esclamazioni di meraviglia e quindi intontire da un torrente di parole insulse. Mary alzò gli occhi e mi guardò. Il mestolo di legno con il quale stava inumidendo un paio di polli che cuocevano allo spiedo rimase a mezz'aria per qualche istante, e così pure il coltello che John stava lustrando. Poi Mary, chinandosi sull'arrosto, disse solamente: Davvero, signorina, ha fatto bene. E dopo poco aggiunse: Ho visto che usciva col padrone, ma non sapevo che andasse in chiesa per sposarsi. E continuò a ungere l'arrosto. John, quando mi volsi verso di lui, aveva la bocca aperta in un sorriso beato. Glielo avevo detto a Mary che sarebbe finita così, disse. Sapevo che il signor Edward. John era in casa da tanti anni e aveva conosciuto il padrone quando era piccolo e per questo lo chiamava spesso col nome di battesimo. Che il signor Edward l'avrebbe fatto e senza aspettar troppo, son sicuro che ha fatto bene. Tanti auguri, signorina. E così dicendo, come per rispetto, si scostò i capelli dalla fronte. Grazie, John. Il signor Rochester mi ha incaricata di dare questo a lei e a Mary. Tenga. E gli misi in mano un biglietto da 5 sterline. Poi, senza aggiungere altro, uscii dalla cucina. Ripassandovi davanti, poco dopo, colsi queste parole: Gli converrà più che una gran signora. E poi, ce ne sono certo di più belle, ma è intelligente e molto buona, e lui certo la trova anche bellissima, chiunque lo può vedere. Scrissi subito a Moorhouse e a Cambridge per annunciare ciò che avevo fatto, spiegando diffusamente perché avevo agito così. Diana e Mary mi approvarono senza riserve e Diana scrisse anche che mi avrebbe dato tempo soltanto per la luna di miele e poi sarebbe venuta a trovarmi. Sarà meglio che non aspetti tanto, osservò il signor Rochester quando gli lessi la lettera, altrimenti arriverà troppo tardi perché la nostra luna di miele brillerà su di noi tutta la vita. I suoi raggi impallidiranno soltanto sopra le nostre tombe. Non so come St. John accogliesse la notizia, non rispose mai alla lettera con la quale gliela comunicavo. Mi scrisse 6 mesi dopo, ma senza nemmeno nominare il signor Rochester, né fare alcuna allusione al mio matrimonio. Era una lettera calma e, sebbene molto grave, cortese. Da allora ha sempre mantenuto con me una corrispondenza regolare, anche se non frequente. Spera che io sia felice e confida che il Signore non debba contarmi tra coloro che vivono senza Dio nel mondo, curandosi solo delle cose terrestri. Non hai del tutto dimenticato la piccola Adele, non è vero, lettrice? Io non l'ho dimenticata. Chiesi ed ottenni al più presto dal signor Rochester il permesso di andare a trovarla nel collegio dove l'aveva messa. La gioia che dimostrò nel rivedermi mi commosse. Era pallida e magra e mi disse che non era felice. Infatti mi parve che la disciplina del collegio fosse troppo rigida e gli studi troppo severi per una bambina della sua età. Così la condussi a casa con me. Mi proponevo di farle di nuovo da istitutrice, ma mi resi presto conto che non era possibile. Un altro reclamava ora il mio tempo e le mie cure. Mio marito, che aveva bisogno della mia completa dedizione. Così cercai un collegio meno rigoroso e abbastanza vicino da permettermi di recarmi spesso da Adele e di condurla a casa di tanto in tanto. E mi preoccupai che non le mancasse nulla di ciò che poteva contribuire al suo benessere. Ella si abituò presto al nuovo collegio, vi si trovò sempre meglio e serena e contenta, fece rapidi progressi negli studi. Nel crescere, una solida educazione inglese corresse in parte i difetti della sua indole spiccatamente francese e quando lasciò il collegio trovai in lei una compagna amabile e compiacente, una ragazza docile, buona e di ottimi principi. Con la sua gratitudine e le attenzioni che ha avuto per me e per i miei, mi ha da tempo largamente ricompensata di quel poco che ho potuto fare per lei. Il mio racconto volge al termine. Ancora qualche parola sulla mia vita coniugale e un rapido sguardo alla sorte di coloro i cui nomi sono ricorsi di frequente nella mia narrazione e avrò finito. Sono sposata da 10 anni e so che cosa significa vivere completamente per e con l'essere che si ama più di tutto sulla terra. Mi considero immensamente felice e fortunata più di quanto le parole possano esprimere, perché sono la vita di mio marito come egli è la mia. Nessuna donna è mai stata più vicina al suo compagno di quanto lo sono io. Nessuna è stata più completamente di me la carne della sua carne, il sangue del suo sangue. Non sono mai stanca della compagnia di Edward, né egli della mia, come non si può esserlo dei battiti del proprio cuore, e perciò siamo continuamente insieme. Essere insieme equivale per noi a sentirsi al tempo stesso liberi, come in solitudine e lieti come in compagnia. Parliamo, credo, tutto il giorno e parlare tra noi non è altro che un modo più animato e percepibile di pensare. Io ripongo in lui tutta la mia fiducia ed egli ha riposto in me tutta la sua. I nostri caratteri sono fatti l'uno per l'altro e ne risulta un accordo perfetto. Il signor Rochester continuò ad essere cieco per tutti i 2 primi anni della nostra unione. Forse fu proprio questa circostanza ad avvicinarci tanto, a legarci così intimamente, perché in quel periodo i miei occhi erano i suoi, come io sono ancora la sua mano destra. Ero davvero, come spesso mi chiamava, la luce delle sue pupille. Per mezzo mio vedeva la natura e leggeva i caratteri di un libro. Io non ero mai stanca di guardare per lui, di descrivergli i campi, gli alberi, i passi, i fiumi, le nuvole, i raggi del sole, sui paesaggi che si stendevano davanti a noi, il bello e il cattivo tempo del luogo dove ci trovavamo, procurandogli con la parola quelle impressioni che gli occhi gli negavano. Non mi stancavo mai di leggere per lui, né di condurlo dove voleva andare, né di fare ciò che desiderava fosse fatto, e trovavo piacere in quei miei servigi, un piacere squisito, anche se un po' triste, perché egli me li chiedeva senza provare vergogna né umiliazione. Mi amava così sinceramente che non esitava mai a ricorrere alla mia assistenza, sentiva che il mio amore per lui era così profondo che servendolo appagavo i miei più dolci desideri. Una mattina, sul finire di quei 2 anni, mentre scrivevo una lettera sotto la sua dettatura, egli mi si avvicinò e, chinandosi, disse: Jane, hai forse qualche cosa di lucente attorno al collo? Avevo la catenella d'oro dell'orologio e risposi: Sì! E hai un vestito celeste pallido? L'avevo! E allora egli mi confidò di aver creduto negli ultimi tempi che il velo nero della cecità si andasse diradando sopra un occhio e che ora ne era certo. Ci recammo a Londra per consultare un oculista eminente e infatti mio marito riconquistò la vista da un occhio. Non vede molto bene, non può leggere o scrivere a lungo, ma può andare dove vuole senza bisogno di una mano che lo guidi. Il cielo non è più nero per lui, né la terra deserta. Quando il suo primogenito gli fu posto tra le braccia, poté vedere che il bambino aveva ereditato i suoi occhi di un tempo, grandi, brillanti e neri. In quell'occasione egli riconobbe di nuovo con tutto il cuore che Dio aveva temperato la punizione con la misericordia. Così il mio Edward ed io siamo felici, tanto più felici perché coloro che amiamo lo sono pure. Diane e Mary Rivers sono sposate entrambe e una volta all'anno noi andiamo da loro e loro vengono da noi. Il marito di Diana è capitano nella Marina e un uomo eccellente, oltre che un brillante ufficiale. Mary ha sposato un pastore, amico di collegio del fratello e degno di quell'unione per le sue qualità e i suoi principi. Sia il capitano FitzJames che il signor Wharton amano le loro mogli e ne sono riamati. Quanto a St. John Rivers, ha lasciato l'Inghilterra per recarsi in India, dove ha iniziato la missione che si era prefissa e ancora la continua. Mai si è visto su una strada impervia pioniere più ardito e infaticabile. Fermo nella sua fede, risoluto, energico, pieno di zelo e di spirito di sacrificio, egli lavora per i suoi fratelli. Appiana loro il difficile cammino verso il miglioramento della nostra specie, abbatte con la forza di un gigante i pregiudizi sociali e religiosi che intralciano la via del Signore. È forse troppo severo, esigente e anche ambizioso, ma la sua severità è quella del guerriero che protegge il suo convoglio di pellegrini dall'aggressione di Abaddon. La sua esigenza È quella dell'apostolo che parla solo in nome di Cristo quando dice: colui che vuole essere con me rinunzi a se stesso, raccolga la sua croce e mi segua. La sua ambizione è quella di uno spirito che vuole uno dei primi posti nelle file di coloro che sono redenti dalla terra, di coloro che stanno puri di ogni macchia davanti al trono di Dio, che dividono le ultime grandiose vittorie dell'agnello e sono chiamati eletti. St. John non si è sposato né si sposerà mai. Finora è riuscito a compiere da solo la sua missione, che ormai si avvicina al termine. Il suo sole glorioso scende rapidamente all'orizzonte. L'ultima lettera che ho ricevuto da lui mi ha strappato dagli occhi lagrime umane, ma mi ha riempito il cuore di una gioia divina. Egli presentiva la sua certa ricompensa. Già intravedeva la sua incorruttibile corona. So che la prossima volta mi scriverà una mano estranea per dirmi che il servo buono e fedele è stato chiamato al fine nella gioia del Signore. E perché piangere? La paura della morte non turberà l'ultima ora di St. John. Nessuna nube oscurerà il suo spirito. Il suo cuore sarà intrepido, la sua speranza certa, la sua fede salda, le sue parole lo attestano. Il mio maestro mi ha avvertito, egli scrive, ogni giorno mi annuncia più chiaramente. Verrò presto, sta sicuro, e ad ogni ora che passa io rispondo con maggior ardore. Amen. Vieni, mio Signore Gesù. Fine.